Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una giornata, quella di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, diciamo dominata da accordi più o meno raggiunti, più o meno definitivi, da profondi disaccordi e poi tutta una serie naturalmente di notizie che sempre caratterizzano tutti i giorni della settimana. Sono le 21.02, 42 minuti ed è quindi il momento di capire quali sono i fatti più importanti. Poi ricordatevi naturalmente che ci sono tutta una serie di approfondimenti con gli ospiti in diretta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, questo fa fra gli accordi raggiunti insomma nelle ultimissime ore sul rischio default, i repubblicani hanno fatto un'offerta al presidente Obama e al suo governo, alzare il tetto del debito per 6 settimane. Intanto Mario Draghi annuncia da New York significativi progressi in Europa. Per salvare l'Italia spunta l'ipotesi Poste Italiane. L'azienda Poste Italiane è pronta a entrare con 75 milioni e una quota tra il 10 e il 15% dentro la compagnia di bandiera. L'ENA, che intanto dice, l'ente nazionale dell'aviazione, senza aumento niente carburante da sabato aerei a terra. Questo è un po' lo spauracchio. Però vedevo adesso proprio un'agenzia che riguarda l'Italia. Dall'Italia servono discontinuità, stabilizzazione dell'azionariato e un'importante ristrutturazione attraverso un nuovo progetto industriale. L'entrata di Poste è fondata su queste premesse, questa è una nota diffusa da Palazzo Chigi proprio adesso. Sul reato di clandestinità, Grillo sconfessa i senatori 5 Stelle, questa sera assemblea dei parlamentari del movimento che dovrebbe essere in corso. Metodo Stamina, il Ministero della Salute dice basta agli esperimenti perché è rischioso per la salute. E poi è stato assegnato oggi il Nobel per la letteratura 2013, assegnato alla canadese Alice Munro, 82 anni, considerata la più grande scrittrice vivente di racconti. E partiamo quindi con l'approfondire le notizie, partiamo da quello che sembra essere uno spiraglio, se non addirittura una svolta negli Stati Uniti, dove il presidente Obama ormai lancia da giorni, da settimane, appelli e allarmi sul rischio default che forse si riesce a sventare. Che succede, Sergio Nava? Buonasera Roberta, innanzitutto buonasera agli ascoltatori. Buonasera. Per il momento sembra più uno spiraglio. Alle 22.35 italiane, l'ora della verità, l'atteso incontro tra il presidente americano Barack Obama e lo speaker repubblicano John Boehner. L'incontro dovrebbe fornire qualche chiarimento in più sulla svolta concretizzatasi oggi e in grado di evitare, almeno per ora, un clamoroso default degli Stati Uniti, ricordiamolo, solo tra una settimana, una scadenza il 17 ottobre. Allora, secondo quanto emerso, si tratterebbe solo di un rinvio di 6 settimane della scadenza tagliola del 17 ottobre, quindi uno spostamento al 22 novembre. I repubblicani mettono sul piatto un negoziato che porti a concludere il cosiddetto shutdown federale, che dal 1 ottobre, ricordiamo, ha paralizzato già molte attività pubbliche gestite da Washington. In realtà la manovra è più complessa e punta ad attaccare la riforma sanitaria varata da Barack Obama, osteggiata dal Partito Repubblicano, riforma che ha trovato nella componente estrema del Tea Party il nemico giurato. Tecnicamente Boehner ha offerto un incremento temporaneo del tetto del debito, quindi un aumento di pochi milioni di dollari, senza, almeno così pare, ulteriori condizioni. L'unica condizione sarebbe quella di un negoziato sui temi fiscali. Ironica ma con stile la reazione della Casa Bianca, con il portavoce Jay Carney che ha affermato: ci fa piacere che al Congresso abbiano smesso di prevalere le teste calde e che finalmente si riconosca che il default americano non è un'opzione. Carney si è anche affrettato a precisare che Obama non intende pagare alcun riscatto, diciamo così, per l'offerta di compromesso. E anche il presidente della BCE Mario Draghi, come dicevi tu nei titoli, che si trova negli Stati Uniti a New York per partecipare ad alcuni incontri pubblici, ha sottolineato come uno stallo in America possa danneggiare l'economia non solo americana ma anche mondiale. Draghi ha parlato anche dell'economia europea: per la prima volta in tanti anni in Europa ci sono segni di significativi progressi, la ripresa economica rimane però ancora fragile e la dinamica del credito debole. È tutto. Grazie Sergio Nava. E dicevamo anche di Alitalia, potrebbero essere proprio Poste Italiane il soggetto pubblico individuato dal governo per soccorrere la compagnia. L'azienda, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, potrebbe partecipare, Poste Italiane, l'aumento di capitale della compagnia da 300 milioni con una cifra intorno ai 75 milioni e una partecipazione fra il 10 e il 15%. E intanto c'è il presidente di ENAC, Vittorio Riggio, dell'ente nazionale aviazione civile, dice: serve una ricapitalizzazione o sabato, questa è la minaccia, l'Italia rimarrà a terra perché non ci sarà carburante. Passiamo alla politica italiana. Sta facendo molto discutere, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, il primo voto che c'è stato ieri, favorevole allo stop al reato di clandestinità. Che il reato di clandestinità dividesse le forze politiche era noto, non si sospettava però che potesse spaccare un intero movimento, quello 5 Stelle. Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio si dicono contrari all'abolizione e criticano i senatori pentastellati Maurizio Buccarella e Andrea Cioffi, fautori in Senato proprio dell'emendamento per cancellarlo con il primo sì in Commissione Giustizia. Per Grillo non faceva parte del programma, d'accordo anche il deputato Riccardo Nuti. Grillo e Casaleggio confermano quello che è il codice di comportamento e il programma del Movimento 5 Stelle. Tutto quello che non è nel programma del Movimento 5 Stelle, quindi gli elettori non ci hanno votato con quel programma, andrebbe discusso con tutti gli elettori e tutti gli iscritti. Intanto mugugni e proteste si fanno sentire sia sul web sia tra i parlamentari. Un'assemblea in serata viene indetta per decidere, mentre il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio invoca calma e sangue freddo e si dice personalmente favorevole all'abolizione. Grillo però ricorda le regole per le leggi non previste dal programma. Prima devono essere discusse in assemblea, poi approvate sul blog. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tornando, diciamo così, all'immigrazione, agli stranieri. Pare che gli stranieri che se ne vanno dal nostro paese possono creare anche danno all'Italia, perché nel solo 2011 32.000 stranieri che sono tornati nel loro paese hanno privato le casse dello Stato italiano di 86 milioni di euro di IRPEF. E questo è il dato più significativo che emerge dal rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione stilato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato all'Università Statale di Milano. Gli stranieri sono contribuenti che pagano le imposte e la crisi ha colpito anche loro, costringendoli quindi a tornare a casa, così ha spiegato la ricercatrice Valeria Benvenuti. Gli stranieri che se ne vanno portano anche a casa una fetta, diciamo, di manodopera che qui è stata indispensabile e sicuramente si portano a casa risorse che vengono meno alle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'idea di questo del lavoro, diciamo, che facciamo proprio di riuscire a identificare l'immigrato come un valore economico per la nostra società, quindi non solo un valore sociale, culturale, ma anche un valore economico, perché gli stranieri lavorano, ricordiamo che comunque svolgono, continuano a svolgere mansioni dalla bassa qualifica, fanno impresa, consumano, producono reddito, pagano le tasse, mandano le rimesse a casa. E passiamo adesso al travagliato disegno di legge sul finanziamento dei partiti. C'è una strada, primo accordo, insomma, che comunque va in salita. È un percorso parlamentare movimentato quello che sta accompagnando il disegno di legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. Non solo le critiche a PD e PDL da parte del Movimento 5 Stelle, ma anche il braccio di ferro all'interno della stessa maggioranza sul tetto delle offerte ai privati. La mattinata si è aperta con una provocazione dei grillini che ha spinto la vicepresidente della Camera Marina Sereni a sospendere i lavori, a scatenare le polemiche e le parole di Riccardo Fraccaro. Voi vi arroccate nel bunker in basso per tenervi stretto al malloppo. E noi, Presidente, continueremo ad opporci e continueremo a chiamarvi ladri. La replica dal Partito Democratico del capogruppo Speranza. Non vogliono risolvere i problemi del Paese, ma alimentare i problemi del Paese per poter creare scontento su cui prendere qualche voto, solo propaganda. Sul fronte dei contenuti, marcia indietro del Popolo della Libertà sulla richiesta di innalzare il tetto previsto per le donazioni e le fideiussioni dei privati. Il compromesso allora tra PD, PDL e Scelta Civica rimanda all'accordo iniziale che fissa un tetto di 300.000 euro con un meccanismo progressivo per l'entrata in vigore da qui al 2017. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di soldi, di finanziamenti, parliamo di crisi. Abbiamo bisogno di fare un manovrone e non una manovrina. Questo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a margine dell'Assemblea degli Industriali di Como a Cernobbio. Con lo status quo noi dalla crisi non usciamo, ha detto Squinzi, il nostro paese rimarrà a crescita bassa o nulla. Confindustria chiede che sul cuneo fiscale ci sia un intervento serio di almeno 10 miliardi di euro. Ma il presidente Letta, ha detto ancora Squinzi, per il momento non mi ha lasciato molte speranze. E occupiamoci adesso di salute, scienza e medicina insieme. Dopo il parere negativo del Comitato Scientifico e dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero della Salute e anche il Ministero ha dichiarato conclusa la sperimentazione sul metodo Stamina, che ha creato tante speranze, tante polemiche, tante retromarcia e tante decisioni. Insomma, alla fine anche il Ministero ha detto stop, e questo è uno degli argomenti che poi approfondiremo più tardi. Torniamo agli esteri. È stato liberato il primo ministro libico Ali Zeidan, dopo quello che è stato una specie di rapimento lampo. Un gioco politico interno, così il premier libico Ali Zeidan ha definito le ultime 24 ore. All'alba il premier è stato prelevato dall'albergo in cui vive a Tripoli da un gruppo armato che lo ha trattenuto per ore e poi lo ha liberato. Subito i sospetti sono caduti sulle milizie e i leader politici legati al presidente del Parlamento libico, Abu Shamain, che in una conferenza stampa ha preso invece le distanze dal sequestro. Poi i sospetti sono caduti sugli ex ribelli della Camera dei Rivoluzionari di Libia, che hanno dichiarato di aver eseguito non un sequestro ma un arresto collegato alla cattura da parte degli americani di Abu Anas al-Libi, considerato il capo di Al-Qaeda e ritenuto la mente degli attentati alle ambasciate americane del 1998 in Kenya e Tanzania. Dopo il suo rilascio nel pomeriggio, il premier Ali Zeidan ha detto: «Volevano le mie dimissioni, ma resisto. Quanto accaduto oggi è un gioco politico interno». Zeidan si è detto fiducioso che l'episodio non metterà a rischio i rapporti diplomatici con l'America. Di certo si tratta di un episodio che ha messo in luce una volta in più la fragilità dello Stato centrale libico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulle notizie italiane con un fatto che è un po' a cavallo tra lo sport ma soprattutto la cronaca. Parliamo di Pietro Mennea, perché ci sarebbero dubbi sul suo testamento. Secondo i fratelli si tratta di un falso e la moglie sarebbe l'unica erede. Lo chiamavano la freccia del sud. Suo fu il primato mondiale nei 200 metri alle Olimpiadi dell'80. Pietro Mennea è stato la leggenda dell'atletica italiana. Dopo la morte dello scorso 21 marzo aveva lasciato in eredità tutto alla moglie, o almeno così riportava il testamento scritto solo 9 giorni prima di andarsene, a portarselo via un male incurabile che nell'ultimo periodo lo aveva costretto alla terapia del dolore. Per questo, secondo i fratelli del campione, esclusi dall'eredità, Pietro non era lucido. I potenti farmaci somministrati non gli avrebbero permesso di scrivere le sue ultime volontà. Il fratello, l'avvocato Vincenzo Mennea, non lascia spazio ad equivoci. La firma è falsa. Noi abbiamo fornito della documentazione inattaccabile, dalla quale è stato possibile fare il confronto. Sono firme apposte davanti a notai. Adesso si attendono le indagini della magistratura. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere questa prima parte di ricostruzione della giornata, parliamo anche del Nobel, naturalmente, per la letteratura 2013, che è stato assegnato oggi dall'Accademia di Svezia alla scrittrice canadese Alice Munro. Nobelpriset i letteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. Maestra del racconto contemporaneo, così recita la motivazione per il Nobel assegnato ad Alice Munro, considerata uno dei massimi esponenti della letteratura attuale. Il suo nome circolava da qualche anno, i bookmaker stavolta la davano 12-1 e finalmente l'ha spuntata. Un Nobel meritato, che premia la carriera di una scrittrice capace di raccontare e analizzare in modo attento le relazioni umane, i contrasti fra generazioni, la vita di provincia. Il critico che in questi anni l'ha maggiormente sostenuta in Italia è Luigi San Pietro. Non è necessariamente il premio Nobel che fa di uno scrittore un grande o grandissimo scrittore, qualche volta è lo scrittore che rende importante il Nobel quell'anno. La prima raccolta di racconti della Munro, La danza delle ombre felici, risale al 68, ma in Italia è arrivata solo nel 94. Il suo grande successo, Chi ti credi di essere, è stato ripubblicato nel 2012 da Einaudi. E sempre Einaudi porterà in libreria nel 2014 l'ultima opera, Dear Life, con il titolo Uscirne vivi. Forse l'ultimo libro della Munro, visto che a giugno, a 82 anni, ha annunciato di non voler più scrivere, un po' come aveva già fatto l'americano Philip Roth. Alessandra Tedesco, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Bene, adesso ci prendiamo una pausa per aggiornare chi sta viaggiando, poi ricordatevi che sino alle 22 siamo insieme con gli approfondimenti con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e ripartiamo dalle notizie e soprattutto dai titoli più importanti. Stati Uniti sul rischio di default, quindi di fallimento, i repubblicani fanno un'offerta al presidente Obama e al suo governo e permettono di alzare il tetto del debito per 6 settimane. Intanto Mario Draghi annuncia da New York significativi progressi in Europa. Ci sono delle novità anche per l'Italia, spunta l'ipotesi Poste Italiane, l'azienda è pronta a entrare con 75 milioni e una quota tra il 10 e il 15% dentro la compagnia di bandiera. L'ENAC avverte senza un aumento niente carburante, quindi da sabato aerei a terra. Sul reato di clandestinità, Grillo sconfessa i senatori 5 Stelle e dovrebbe essere ancora in corso l'assemblea dei parlamentari del Movimento. Il metodo Stamina, il Ministero della Salute dice basta agli esperimenti perché dice è rischioso per la salute. E poi il Nobel per la letteratura 2013, che è stato assegnato alla canadese Alice Munro, 82 anni, considerata la più grande scrittrice vivente di racconti. E passiamo al primo ospite. Michele Ainis. Eccolo. Buonasera, ciao Michele Ainis, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, per l'Espresso, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3, tutta una serie di altri elenchi, ha scritto un sacco di saggi. Michele, hai sentito di questa intesa che sembrerebbe raggiunta da PD e PDL sul finanziamento pubblico ai partiti? Si parla di un tetto di finanziamento da parte di privati fino a 300.000 euro, questo alla fine ha fatto trovare l'accordo anche col PDL, però il finanziamento pubblico a questo si rinuncerà in modo progressivo fino al 2017. Ora, visto che tu tra l'altro oggi sul Corriere della Sera nel tuo editoriale parlavi insomma delle riforme a livello zero in Italia, ti sembra questa una riforma più o meno compiuta tra le cose da cambiare? Insomma, al momento è un'incompiuta, come del resto la legge elettorale, insomma, sono delle promesse, degli annunci di riforma che ci trasciniamo dietro dalla legislatura passata. Non lo so se a pensar male si fa peccato, però forse i partiti non hanno molta voglia né di liberarsi di questa legge elettorale che gli consente tanti vantaggi, no? Possibilità di scegliere chi diventa deputato, chi senatore, i nominati, insomma. Ecco, e anche il finanziamento pubblico che si misura in quattrini. Detto questo, poi io sono tra quelli che pensano, magari adesso saremo diventati una minoranza, che una quota di finanziamento pubblico, però piccola, perché ci vorrebbe, no? Ci vorrebbe. Sì, io credo che sarebbe una garanzia, diciamo, per i nanetti, perché per chi non ha grossi capitali da investire in politica, no? Altrimenti si dice solo i ricchi effettivamente potrebbero fare politica poi nel prossimo futuro, futuro più o meno vicino, più o meno lontano, non si sa, però. Quindi tu supera una quota di finanziamento pubblico, più o meno in che percentuale? Tanto per dare un'idea, Michele, cosa hai in mente tu? Bisogna vedere qual è l'unità di misura, perché poi davvero la quantità si trasforma in qualità, diceva un vecchio giurista: se io vado in una spiaggia e mi metto una manciata di sabbia in tasca come souvenir non commetto nessun reato, però se ci arrivo col camion e spalo, mi riempio il camion per farci poi il cemento, quello è un furto di cosa pubblica. Sai che adesso in certe spiagge neanche la manciata in tasca puoi avere, soprattutto certe spiagge un po'... particolari, esplosive, quelle protette, per sottolineare. Comunque, insomma, quindi dici, insomma, se è una piccola quota. L'estate è lontana, purtroppo. E credo che sia lontana anche la legge sul finanziamento pubblico. Hai sentito oggi la Camera, perciò c'è stata veramente, come si dice, grande bagarre, perché il Movimento 5 Stelle, in particolare il parlamentare Fraccaro, se non sbaglio, li ha chiamati ladri, addirittura dice di essere stato minacciato di morte da alcuni del PD, vi ammazziamo, vi inseguiamo, insomma adesso questa è la versione sua, però secondo loro, almeno per il Movimento 5 Stelle, questa è una farsa, no? E soprattutto anche il fatto che sia progressiva fino al 2017 e non che si decida da subito di toglierli di mezzo questo finanziamento pubblico. Ma insomma, in questo non mi trovo dissonante, cioè se una riforma la fai non la puoi fare per i tuoi nipotini, la devi insomma parlare da subito. Non so bene che cosa, perché poi il giochino qual è? Migliorare, però siccome il meglio è nemico del bene e poi alla fine non cavi un ragno dal buco e le cose rimangono com'è, insomma l'esperienza della legge elettorale, che per almeno l'ultimo pezzo, l'ultima metà della legislatura scorsa tutti i partiti dicevano di voler cambiare e invece abbiamo votato con questa, e ciascuna aveva un'idea diciamo migliore dell'altra, ma probabilmente il retropensiero era lasciamo le cose come stanno, che ci conviene così. Sai che Giachetti del PD ha riniziato il suo digiuno, l'ho avuto forse 3-4 giorni fa, se non di più. Anche questa avrà tempi lunghi, immaginiamo. Come si fa a spingere la politica italiana, i parlamentari a fare queste benedette riforme? Una domanda ingenua. Questo qui è il paradosso che circonda ogni riforma, perché le riforme, se sono tali, cambiano le cose, quindi qualcuno ci guadagna e qualcuno ci rimette, ma se devono essere approvate da tutti, chi ci rimette non le approva. Per esempio, se tu vuoi mettere in pista una riforma del bicameralismo, perché noi abbiamo queste due camere con gli stessi poteri, che non c'è da nessuna parte un sistema così paralizzante, però hai bisogno dell'approvazione del Senato per ridurre i poteri del Senato, e insomma è dura. Certo. Senti, invece sulla questione amnistia-indulto, visto che continuerà ad essere sicuramente in primo piano, anche se non lo era particolarmente oggi, ma lo era ieri, l'altro ieri, e ritornerà sicuramente di grande attualità, che ne pensi? Per esempio, vedevo adesso, vediamo se la ritrovo, un'agenzia di pochissimi minuti fa, è solo questione, ecco, di raccapezzarmi qui con il computer, c'era Epifani che diceva sull'amnistia andiamoci piano, è una cosa da valutare, è un po' l'ultima spiaggia sia l'amnistia che l'indulto, e tra l'altro non prevediamo tra i reati la frode fiscale, mi sembra un messaggio neanche tanto subliminale, diciamo. Ma questa questione andrebbe intanto disintossicata dalla vicenda che riguarda il senatore Silvio Berlusconi. Se lo mettiamo un attimo da parte questo, l'amnistia e l'indulto sono due misure straordinarie, anche se un tempo erano fin troppo ordinarie, se ne facevano un paio l'anno. Se conveniamo che la situazione delle carceri è un'emergenza, cioè è una situazione straordinaria, allora diciamo, occorrerebbe una risposta straordinaria, naturalmente non da sola, naturalmente accompagnata da vari interventi di depenalizzazione dei reati minori, di quindi tipo cancellare la Bossi Fini, la Giovanardi Fini, se non sbaglio, no? Quella sul possesso di droghe di quantità anche minima, e poi quella sui clandestini, che forse appunto con i voti che ci sono stati, adesso bisogna vedere Grillo che cosa si fa venire in mente, insomma, su questa questione. Però dici cose come queste da depenalizzare. Diciamo, i reati minori poi sono anche altri. Queste due leggi sono fortemente responsabili del sovraffollamento carcerario, perché mi pare che un terzo dei detenuti siano tossicodipendenti e la loro pena è legata a questi problemi di uso di stupefacenti. E poi c'è un altro dato su cui non si riflette mai abbastanza: il 40% della popolazione carceraria italiana è composto da innocenti, cioè da presunti innocenti. Il 40%? Cioè da persone che non hanno avuto una sentenza definitiva di condanna, quindi o non hanno mai avuto la prima sentenza, o hanno avuto la prima ma sono ancora in appello, e questi si presumono innocenti perché lo dice l'articolo 27 della Costituzione. Allora anche la Corte di Strasburgo, alla quale si è poi richiamato il Presidente Napolitano nel suo messaggio alle Camere, è rimasta abbastanza sbalordita da questo dato, lo diceva. È un dato patologico che ci segnala da un lato un abuso della custodia preventiva e dall'altro poi, se andiamo a vedere chi sono costoro, ma sono sempre gli ultimi della fila, sono sempre emarginati, sono extracomunitari in larga parte. Una volta si diceva è una cosa di classe, no? Quando una certa misura colpiva certe fasce, adesso non si usa più però il concetto, siamo lì, quindi, perché poi si prescrivono, mi pare adesso, 130.000 processi l'anno, perché la giustizia è una lumaca, erano 170.000 l'anno fino a pochi anni fa, insomma per vari anni di seguito sono un po' calati, ma queste prescrizioni sono altrettanti delitti senza castigo, altrettante vittime senza risarcimento. Certo, perché lì in mezzo ci saranno persone innocenti, ha visto prescrivere invece che appunto essere assolte, ma ci saranno anche colpevoli che non vanno in galera, quindi sarebbero ancora più sovraffollate forse le carceri, il paradosso senza queste prescrizioni. Io dicevo questo per dire che in genere chi può pagarsi buoni avvocati riesce a ottenere la prescrizione, perché l'avvocato si sa come sfruttare le inefficienze del sistema. Invece il povero Cristo, che l'avvocato non se lo può pagare, voglio dire, qualche anno fa c'è stato un processo, è stato processato un barbone a Como, perché che rovistava nei cassonetti dell'immondizia per trovare qualcosa, furto di cosa pubblica, processo imbastito. Un marocchino a Milano ha subito un processo per una truffa da 28 centesimi, voglio dire, poi costano queste cose. Quindi, diciamo, sarebbe un bel elenco da fare queste cose e ricordarle tutte le sere, forse qualcuno potrebbe vergognarsi a un certo punto, che dici Michele? Dico che c'è un sistema che è forte con i deboli e debole con i forti. Tanto per cambiare. Michele Ainis, io ti ringrazio molto, grazie Michele, buona continuazione e buon lavoro. Ciao Michele. Anche a voi, buonasera. Ciao. Abbiamo un po' di pubblicità naturalmente e poi ritorniamo con gli altri ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ripartiamo quindi dai titoli, Roberta Giordano sempre con voi. Vi ricordo che c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, per riconoscerlo, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Dicevamo allora i titoli: c'è uno spiraglio negli Stati Uniti sul rischio default. Per evitare insomma il fallimento, i repubblicani fanno un'offerta al presidente Obama, al suo governo, e accettano di alzare il tetto del debito per 6 settimane. Intanto Mario Draghi annuncia da New York che ci sono dei significativi progressi in Europa. Per salvare l'Italia spunta l'ipotesi Poste Italiane, l'azienda pronta a entrare con 75 milioni e una quota tra il 10 e il 15% dentro la compagnia di bandiera. C'è il ministro dei trasporti Lupi che dice esulta, ce l'abbiamo fatta. Sul reato di clandestinità Grillo sconfessa i suoi senatori, questa sera c'è l'assemblea dei parlamentari del Movimento. Per quanto riguarda il metodo Stamina, il Ministero della Salute dice basta agli esperimenti perché è rischioso per la salute. Il Nobel per la letteratura 2013 è stato assegnato alla canadese Alice Munro, 82 anni, che è considerata la più grande scrittrice vivente di racconti. E intanto vedo che c'è servizio pubblico sulla 7. Sentiamo Stefano Rodotà. Cosa sta dicendo? Il problema è che dobbiamo modificare la regola delle regole. Questo sta accadendo perché una Costituzione ha una regola per il cambiamento, una garanzia per tutti. Se adesso, come si sta cercando di fare, si cambia la regola per cambiare la Costituzione, domani qualcun altro si sveglierà e dirà: beh, strenuo difensore da sempre volta, della Costituzione, tra l'altro negli ultimi mesi era stato protagonista di questo psicodramma per l'elezione del Presidente della Repubblica, vi ricordate, era anche candidato al Movimento 5 Stelle, poi Grillo aveva sconfessato, un'altra sconfessione anche in quel caso. Finirla col bicameralismo perfetto, piantarla con una riforma del titolo quinto che ha creato contenzioso enorme tra state e regioni. Questo si poteva fare subito, cominciando con le procedure ordinarie. Perché non si è fatto? Perché si vuole agganciare a questo treno un vagone che è quello di una forma di governo che accentra i poteri, diminuisce le possibilità del controllo, personalizza la politica, in un momento in cui le persone che incarnano la politica non hanno la fiducia delle persone. E allora noi vogliamo capovolgere completamente questo schema. Non solo la Costituzione. Sta parlando di Costituzione, anche di riforme. E sono questi i promotori della manifestazione che in questi anni, usando la Costituzione, una serie di soggetti civili e sociali sono stati vincenti. Parliamo allora di politica. E di riforme, di cambiamenti. Giovanni Favia, buonasera, benvenuto. Buonasera. Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia Romagna ed ex esponente del Movimento 5 Stelle. Favia, se me lo concede, è anche piuttosto noto perché è stato il primo espulso del Movimento 5 Stelle? Ma proprio il primo espulso no, perché Casaleggio tentò prima di espellere le persone che mi erano vicine proprio perché io ero troppo popolare per essere colpito. Però diciamo è stata l'espulsione più nota. Più nota, quella più in cui c'è stata anche più polemica. Riepilogo quello che è successo oggi a proposito del reato di clandestinità, di quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, di come è intervenuto Grillo. Quindi due senatori del Movimento 5 Stelle, che sono Buccarella e Cioffi, hanno proposto in Commissione Giustizia del Senato un emendamento per l'abolizione del reato di clandestinità contenuto nella legge Bossi-Fini sulla scia di quello che è successo a Lampedusa. La misura viene approvata ieri da quella che è stata definita una strana maggioranza, perché è composta da PD, SEL, Scelta Civica e alcuni berlusconiani. Poi Beppe Grillo che cosa ha fatto? In un primo tempo ha condiviso questa scelta, questo emendamento e questo voto, poi con una brusca retromarcia sconfessa i due senatori, li attacca duramente sul suo blog, in un post a doppia firma poi con Gianroberto Casaleggio, ha scritto: la loro posizione è del tutto personale, non faceva parte del programma, non siamo d'accordo sia nel merito che nel metodo. Quindi siamo di fronte di nuovo a un po' di incongruenze, a un po' di forze centrifughe dentro, sì, il... Potrebbe usare il termine schizofrenia. Sì, in realtà non volevo essere io, sì. Quello che fanno è tutto molto studiato e calcolato, anche quando sembrano irrazionali. Sta parlando di Grillo o del movimento dei parlamentari? Grillo e Casaleggio, che sono i proprietari e di fatto i padroni del movimento. Tecnicamente, ricordiamo, il Movimento 5 Stelle è un'associazione registrata. Nel direttivo ci sono Grillo, suo nipote e il suo commercialista. Per la legge italiana, al Viminale il Movimento 5 Stelle è registrato così. È un movimento di proprietà di fatto di Beppe Grillo e l'ideologo si chiama Gianroberto Casaleggio. Cos'è successo? Beh, innanzitutto non è stata proprio una retromarcia. Grillo e Casaleggio sono due grandi comunicatori. E questo lo sappiamo. Però politicamente mi prendo la responsabilità di quello che dico, politicamente sono due persone sporche, ovvero usano la menzogna, sono opportuniste e speculano ogni volta che possono speculare su una questione. Cosa è successo? Che Casaleggio non aveva digerito l'emendamento dei senatori. Casaleggio, ricordiamolo, è stato un simpatizzante leghista, abbastanza anche, come dire, convinto, era una persona che in ufficio teneva il fazzoletto verde in tasca e quindi posso capire che... Aveva non abbia... il fazzoletto verde in tasca? Esattamente, parlo di prima del movimento, quando lavorava ancora in Telecom, quando in Telecom ci fu poi la scalata padana, che poi diciamo lo mandavano anche via perché questo grande manager... Non poteva essere una passione cromatica la sua per il fazzoletto verde, no? No, era proprio convinto. Dichiaratamente sono usciti anche articoli che lui non ha mai smentito, tra parentesi. Ma questo io lo so perché, oltre ad essere l'esponente in passato, diciamo agli inizi del movimento, ero l'esponente più noto, ero anche quello che faceva un po' parte della cerchia ristretta. E quindi, anche se non conoscevo i loro lati più oscuri, ho familiarità, insomma, su quella che era la loro storia e su come un po' possono ragionare. Fabia, comunque qualcuno potrebbe dire, no, un po' maliziosamente, certo è stato espulso, quindi non può che parlarne male di Grillo e Casaleggio, dicendo anche che, ha detto lei, che sono due persone sporche, però ho visto una sua dichiarazione che era anche un po' un'analisi politica che può essere comunque fondata, sia che si sia grillini o meno. Diceva oggi, mi sembra, Grillo ha portato avanti in questi anni un incantesimo facendo credere che destra e sinistra, come valori diffusi tra i cittadini, si fossero improvvisamente del tutto vaporizzati, ma mentiva, questa seconda parte non so poi se sia vero, ma mentiva in mente bene sapendo di farlo. È esattamente questo. Al di là di quelle che possono essere le mie motivazioni, conta, diciamo, la veridicità di quello che dico o meno. E ripeto, io conosco bene il fenomeno, non era ancora il mio, ma devo espiare le mie colpe avendo portato tanta acqua a quel mulino ingenuamente per anni. E semplicemente accade questo: loro oggi sono la terza forza politica, il terzo polo, riescono a tenere un sistema bipolare di fatto, perché hanno metà dei voti in un elettorato di destra e metà dei voti in un elettorato di sinistra. Per riuscire a tenere tutte queste persone sotto lo stesso cappello c'è bisogno di un artificio, di un incantesimo comunicativo, che Grillo riesce a fare egregiamente. Ha avuto dei problemi all'inizio, soprattutto in Parlamento, ma col pugno duro con cui sta gestendo i parlamentari e con tutti i danni che succedono in Parlamento, come dire, questa cosa è rimasta sotto traccia. In realtà, per quanto i partiti di destra e di sinistra non abbiano in questi 20 anni, 30 anni rappresentato i valori, i sentimenti, il cuore del loro elettorato, i valori nella cittadinanza sono rimasti. E finché fai le liste 5 Stelle nei comuni, puoi dire il politico è il buon padre di famiglia, agisce col buon senso, nel rispetto della natura, dell'ambiente, eccetera, eccetera. Ma questo può farlo un amministratore pubblico locale, un sindaco. Questo ragionamento del buon senso non può valere sulle tematiche nazionali. Lì ci vogliono posizioni politiche, una visione di società, anche sui temi economici, anche sui temi etici, anche sui temi dell'immigrazione. Queste cose il movimento non le ha. Si è presentato con 20 punti di microeconomia e di taglio ai costi della politica, cosa che io in larga parte condivido, ma che quando arrivi ad avere il 20-25% non puoi continuare, come dire, a limitarti con questi 20 punti. O ti schieri, ci sa che parte stai, e perdi una parte del tuo elettorato, oppure fai solo propaganda, fai solo un'operazione di marketing che prima o poi pagherai. Io ho detto che questo è il declino. Perché? Perché c'è... Non ho capito bene l'ultima parola. Ho detto nel mio comunicato oggi che questo era l'inizio del declino. molto lento, perché adesso si vedrà più a medio termine, secondo me, questa crisi sistemica del movimento, prima o poi uscirà. Però è esattamente questo, perché c'è una base elettorale che si è allargata a destra rispetto agli inizi, dove chi seguiva il Movimento 5 Stelle erano più che altro persone ambientalisti, antagonisti, persone comunque che venivano da network culturalmente di sinistra. Oggi invece la base elettorale si è spostata a destra, ma per via di quelle parlamentari ridicole che sono sembrate un casting di X Factor, dove poteva candidarsi solo chi era nel Movimento 5 Stelle negli anni precedenti, i parlamentari sono più spostati a sinistra come cultura, come estrazione culturale, perché sono grillini, tra virgolette, della prima ora. Quindi una schizofrenia, mi perdoni Fabia, non solo all'interno, diciamo, delle idee, delle posizioni di Grillo del Movimento 5 Stelle, ma anche rispetto a chi rappresenta, no? Sì, c'è questo problema, lei lo può vedere dai commenti, cioè ci sono dei commenti, diciamo, che se li facesse, come dire, uno della Lega non mi stupirei, ma non so, sentire del movimento sono un po' strani, no? E poi c'è il commento anche di, volendo, più di estrema sinistra, cioè questa spaccatura della base elettorale che sta avvenendo anche, che è minore nei parlamentari perché sono più spostati a sinistra, ma forte nelle nuove generazioni di eletti 5 Stelle, prima o poi avrà delle conseguenze, e Grillo vuole continuare a non affrontare i problemi, salvo intervenire come un bulldozer sparando con un bazooka a delle mosche quando qualcuno osa, diciamo, andare un po' fuori da quello che è il suo seminato, non il seminato del movimento. Perché ricordiamo una cosa, cerco di essere brevissimo. Sì. Oggi Grillo prende le distanze e dice che l'ha fatto a titolo personale, ma ieri sera aveva tentato il comunicatore Casaleggio di rigirare la frittata, facendo un comunicato sul suo blog, sposando l'emendamento e dicendo che era un emendamento, pensate quanto sono furbi e meschini, che serviva ad agevolare le espulsioni. Il titolo era Espulsioni più facili. Solo che la base del movimento, quella, diciamo, con sensibilità più a destra, non è così fessa, non c'è cascata, e oggi hanno dovuto invece fare questa retromarcia. Ma le espulsioni più facili erano quelle dei clandestini o quelle del Movimento 5 Stelle, dei parlamentari? No, sono sempre quelle dei parlamentari, quelle più facili. Ecco. Però sì, loro si riferivano a quella degli immigrati. Hanno tentato di far passare l'emendamento dei senatori come una cosa pro espulsioni, perché sanno che c'è una grossa parte di paese che è sensibile a queste tematiche. Loro, che non fanno politica perché non producono contenuti in realtà con un pensiero politico strutturato, non producono classe dirigente di qualità, la loro politica è marketing, è comunicazione. Per questo vincono, perché oggi questa è diventata la politica. Ma prima o poi, a lungo andare, non può reggere questo sistema. E io credo che nel medio termine, non nel breve, il Movimento 5 Stelle, se veramente non cambia completamente passo, mettendo da parte i deliri dei due padroni, avrà vita breve. Gianni Fabio, due cose in ultimo. Uno, vabbè, leggo giusto uno dei commenti sulla pagina di Effetto Note, la pagina Facebook di Domenico Alberto, che dice: fino a prova contraria non esiste ancora il vincolo di mandato, per cui l'uscita di Grillo lascia perplessità. Poi ci sono altri commenti più politici sul reato di clandestinità, eccetera. Però l'ultima domanda che le faccio: lei è in contatto con alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle? State per caso tramando, organizzando di staccarvi le scissioni, visto che sono di moda, poi alcuni rientrano, insomma, Grillo e Casaleggio hanno mandato in Parlamento comunque una classe politica debole. Le mancanze si annacquano perché sono in tanti, e per i danni che stanno facendo gli altri soprattutto, e quindi anche, diciamo, i dissidenti che ci sono, ce n'è convinti, non hanno almeno la forza. Poi una quindicina al Senato. Anche i dissidenti hanno molta paura, perché sono inseriti in questa bibbia del web, nei social network a 5 stelle, nei network 5 stelle, dove appena dicono qualcosa contro di loro vengono insultati. Quando 30 persone su una pagina Facebook, io ne sono testimone, ti danno del venduto, del poltronaio, cose del genere, tu credi che sia il popolo che si sta ribellando contro di te. In realtà è un social media. Sono 30 persone su una popolazione di 50 milioni. E quindi psicologicamente sono molto influenzati da questo meccanismo, che è un grande fratello virtuale. Anche l'utilizzo del Movimento 5 Stelle che fa del web non è un meccanismo innovativo, perché è dall'alto, al blog di Beppe Grillo, verso il basso, dove migliaia di replicanti bombardano con messaggi di Grillo tutta la rete. Chiarissima la sua posizione, Giovanni Fabia. E intanto la ringrazio, ci sarà poi occasione per riparlarne. Grazie, buonasera. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, proseguendo con le notizie. Adesso vi ricordo i titoli e poi c'è un altro ospite già pronto per approfondire un altro argomento importante di oggi. Quindi dicevamo che c'è questo spiraglio negli Stati Uniti sul rischio di fallimento, perché i repubblicani fanno un'offerta, hanno un'apertura verso il presidente Obama e il suo governo e accettano di alzare il tetto del debito per 6 settimane. Intanto Mario Draghi annuncia da New York significativi progressi per quanto riguarda l'Europa. Per salvare l'Italia spunta l'ipotesi Poste Italiane. L'azienda è pronta a entrare con 75 milioni e una quota tra il 10 e il 15% dentro la compagnia di bandiera, e sembra cosa già fatta, perché il ministro dei trasporti Lupi dice ce l'abbiamo fatta, esulta in questo modo. Polemiche sul reato di clandestinità. Grillo sconfessa i senatori 5 Stelle e questa sera c'era l'assemblea dei parlamentari del Movimento. Abbiamo sentito poco fa un espulso famoso del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, e quello che pensa di Grillo e Casaleggio. Metodo Stamina. Il Ministero della Salute dice basta agli esperimenti perché è rischioso per la salute. E poi è stato assegnato anche il Nobel per la letteratura dopo quelli di questi giorni. È stato assegnato alla canadese Alice Munro, 82 anni, considerata la più grande scrittrice vivente di racconti. Adesso parliamo col prossimo ospite, che è Armando Massarenti, che ho il piacere di avere qui di fronte a me. Ciao Armando. Ciao. Che è responsabile del supplemento culturale del Sole 24 Ore, la domenica, o domenicale, famoso anche come domenicale, filosofo della scienza, che tra i suoi tanti libri ha scritto Staminalia. E Armando, vorrei sapere qual è il tuo parere rispetto a questa decisione della ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, che dopo vari tira e molla ha detto anche lei basta a questo metodo Stamina. Di poco fa però la notizia in serata del PDL che si divide su questa decisione della ministra sulla sperimentazione Stamina. 17 senatori dicono no alla Lorenzin e affermano è una delle pagine più amare nella storia dei diritti e della scienza nel nostro paese, ancora più grave, dice, perché è scritta sulla pelle di piccoli malati. Ma sulla pelle di piccoli malati è scritta invece la ciarlataneria di chi sostiene il metodo Stamina. Noi l'abbiamo sempre sostenuto con grande forza sulle pagine della domenica, che sono pagine culturali, che hanno sempre avuto un punto di forza proprio nel promuovere la cultura scientifica, nel senso più vicino proprio a una questione di valori di fondo. Noi dobbiamo promuovere sempre di più i valori della conoscenza, ed è veramente scandaloso che un Parlamento abbia fatto delle norme per stanziare per esempio 3 milioni di perché euro aveva fatto per una mesi certo fa. Il Senato aveva promosso questa sperimentazione, che non ha alcun senso dal punto di vista della scienza, per cui le divisioni politiche fanno semplicemente ridere di fronte a questa cosa. E devo dire che la neosenatrice a vita Elena Cattaneo, che è un'esperta di queste cose, era intervenuta più volte prima ancora di essere senatrice a vita. È più di un anno che noi insistiamo sul fatto che il metodo Stamina viola tutta una serie di norme di base che il mondo accetta da sempre e che sono alla base della nostra qualcuna, salute. Proprio tre. Ma semplicemente i trial clinici, il modo appunto di fare sperimentazione. Allora, ecco, se uno comincia a dire, e questo era il mio libro anche Staminalia, non a caso aveva un titolo un po' ironico, era Siamo in Italia, cioè solo in Italia succedono cose di questo genere dal punto di vista della violazione del metodo scientifico, del metodo che poi si traduce appunto nella buona regolamentazione riguardo ai trial clinici. E solo in Italia succede perché? Perché abbiamo una classe politica, una classe dirigente molto debole, molto fragile dal punto di vista di quelle che io chiamo le autorità epistemiche, cioè da quella solidità di fondo che deriva dal fatto di avere una comunità scientifica che viene tenuta in conto sempre nelle decisioni politiche. Non che la politica deve fare quello che gli detta la scienza, sia ben chiaro, certo. Ma che deve tenere conto di cose assolutamente banali per qualcuno che fa ricerca tutti i giorni, che sono appunto queste. Ci sono alcuni metodi, ci sono alcune cose sperimentabili, altre non lo sono. Dici, in questo caso la Stamina non è sperimentabile? Non lo sono, tant'è che c'è una commissione, Lorenzin si è comportata molto bene, perché intanto ha dato retta alla commissione che sta, di scienziati, che all'unanimità ha denunciato la fallacia di questo metodo, e lei stessa si è comportata in maniera molto netta dicendo appunto che approvava e consolidava la decisione della Commissione. Quindi queste divisioni politiche io francamente le capisco poco, secondo me sono più che altro dettate da una certa ignoranza e quindi queste dalle cose sono anche giustificabili. C'è un'emotività che però un buon medico deve sempre frenare, no? Qui stiamo parlando di cure, allora quando un medico si commuove e quando non dovrebbe e sbaglia, ecco, e anche uno scienziato quando si commuove quando non dovrebbe fa molti più danni che invece nei casi in cui tiene fermo sulle cure che davvero funzionano. E dici su questo... solo un titolo del Domenicale, stiamo proprio chiudendo. Ma un titolo Armando... è la copertina, questo teorema salverà il liceo classico, cioè il liceo classico si salva studiando il greco attraverso i classici della scienza antica. Grazie Armando Massarenti. Grazie. Grazie.